Io, come sapete, io sono napoletano e tengo molto la mia città. Io amo profondamente la mia città e le zone della mia città. Per cui credevo che la cosa migliore, credo che la cosa migliore che possiamo fare noi in questo momento, noi atleti olimpionici e anche giocatori di calcio, è quella di mettersi a disposizione un poco anche del sociale. Per cui avevo saputo questa notizia di questo campo di calcio del quarto che era stato requisito, insomma, alla Malavita. E avevano avuto dei problemi, per cui mi sembrava giusto, ecco, schierarmi a favore della legalità, ecco. È nata questa idea di invitare il commissario tecnico della nazionale proprio per far effettuare un allenamento alla nazionale, in modo da rendere un poco pubblica questa storia. In realtà credo che sia stata resa abbastanza pubblica. E vediamo, ecco, io in settimana sarò allo stadio già prima di campionato della squadra del quarto e da lì speriamo bene di riuscire a organizzare definitivamente questo incontro con il CT Prandelli. Ecco, accendere le luci, mantenerle vive su queste situazioni è anche la miglior difesa, no? Per chi prova a ripristinare la legalità. L'attenzione, le luci della ribalta sono quanto, di meno vogliono queste organizzazioni, no? Sì, no, va bene, io non vorrei parlare dell'organizzazione. Io credo che noi in questo momento, io in particolare in questo momento e anche i giocatori di calcio possiamo fare del bene. In questo momento quello che credevo che era la situazione migliore era proprio questa. È capitata questa occasione, l'ho colta al balzo e insomma andiamo avanti in questa situazione. Almeno ho cercato di fare qualcosa di buono, ecco, oltre a medaglia ho cercato di fare qualcosa di buono anche per un paese, per una serie di ragazzi che giocano in questa squadra e soprattutto per dimostrare che lo sport alla fine è legalità e che noi dobbiamo dare il buon esempio. Adesso devi metterci una buona parola per il gemellaggio col Napoli, che è il prossimo grande passo. Mazza, devo Col fare tuo tutto, Napoli. vabbè. No, io magari sì, magari si può organizzare anche una cosa del genere. Come prima cosa è importante che venga accettato, come già so che è stato accettato, l'invito e poi partiamo prima con questa cosa e vedremo magari se Calcio Napoli vorrà partecipare anche lei, siamo felicissimi, ecco. Senti, se Prandelli ti chiedesse di fare due calci con la nazionale, che ruolo sceglieresti? Ma guarda, io meglio non li faccio perché sennò rubo il posto a qualcuno, Ah, è sì. meglio. Allora sei forte, eh? No, bravino, insomma, come tutti i ragazzi, ecco, mi piace giocare a calcio e sono più una non so, un'ala destra, ecco, corro abbastanza su quella fascia. Ah, beh, può far comodo. Senti, come Può farebbe far comodo a comodo. questa nazionale anche un Insigne che è, diciamo, il talento emergente di questo campionato e che Gianazzurro ha fatto bene, no? No, sì, per carità, io ho visto giocare col Napoli per la prima volta e mi ha sbalordito perché è un ragazzo giovane e ha già la personalità di un grande campione e la sfrontatezza anche di un grande campione, poi ha dei numeri incredibili, quindi speriamo che possa far bene innanzitutto col Napoli, così pare, e poi con la nazionale perché come pare il commissario tecnico sta puntando sui giovani e quindi lui è uno veramente di grande valore. Senti, per carattere, ma anche per tipologia fisica, per istinto, dovessi invitare un azzurro in pedana a provare a dar di sciabola, chi convocheresti? Un azzurro, non saprei, mi farebbero paura un po' tutti quanti, ti dico la verità, sono così veloci, hanno dei cambi di ritmo davvero eccezionali, quindi non saprei, magari poi vediamo, qualcuno lo invita, magari proprio con il commissario tecnico, no?